te ne vai proprio adesso in un giorno che piove. Sono stato al bar del Rosso e al mio ritorno non c'eri più. Dove sei? Che piove. Le tue cose nel cassetto sono tutte quante ancora là, giù nell'armadio. Tutto è a posto, ma non è per caso che sei andata in giro nuda. Che piove.